Sono solo 3 giorni che ho un lavoro fisso e già entro al bar davanti alla biblioteca alle 9:15 e chiedo il solito. Un cappuccino con tanta schiuma e una brioche alla marmellata. Io sono qui. Io sono qui. Di Matteo Caccia. Sono le 16:06, oggi è mercoledì 23 febbraio 2011. Sono Matteo Caccia e sono qui. Buon compleanno, Mark. Il 5 dicembre del 2008 festeggerai i tuoi 29 anni. Tu non mi conosci, ma io ti conosco molto bene, Mark. Con te oggi inauguriamo la rubrica Ritratti di Google della nostra rivista. È una rubrica molto semplice. Si prende uno sconosciuto e si racconta la sua vita attraverso le tracce che ha lasciato volontariamente o meno su internet. Ti avverto, Mark, sarà violentemente impudico, ma sarà per una buona causa. Così, la prossima volta, starai più attento. Ecco, questo che vi ho appena letto è l'inizio di un articolo di una rivista francese che si chiama Le Tigre, uscito il 7 gennaio del 2009. Ritratti di Google è una rubrica geniale, secondo me, che racconta proprio come, attraverso il motore di ricerca per eccellenza, ognuno di noi possa trovare informazioni su chiunque. Può vederne la faccia, scoprire il lavoro che fa e dove vive. Soprattutto però può capire i dettagli ancora più narrativi di questi. L'orientamento religioso e quello politico, ad esempio. I gusti musicali, quelli cinematografici. Può sapere se è sposato oppure no, se è separato oppure no. Se ha la fedina penale sporca e se gioca a calcio, perché squadra tifa. Dove va in vacanza e se la ricerca è attenta e i dati sono ben incrociati, può capire se quella persona è felice o no. E non bisogna essere dei giornalisti o dei ricercatori di nuove tecnologie per aver inserito il numero di qualcuno nella barra di Google. I motivi sono sempre quelli: cercare informazioni. Che fosse un collega di lavoro, un conoscente, una nuova frequentazione o un nuovo capo, chiunque sia la persona su cui avete fatto ricerche tramite Google e volete raccontarmele, io sono qui. E il numero è sempre quello, è 800240024 349-238-6666 per mandare un sms. Scusate, ho spostato il microfono, ho fatto un rumore strano, lo rifaccio così si capisce che era solo il microfono, chiedo scusa a Paolino Corleone che a momenti sviene di là in regia per questo rumore, non si tocca mai il microfono. Questo pezzo che vi ho letto però è un pezzo di un articolo e di una storia che mi ha raccontato Tiziano Bonini l'anno scorso, credo, che è tra l'interessante e l'inquietante. È appunto, come vi dicevo, è l'inizio di una rubrica uscita su una rivista francese. C'è anche un indirizzo internet, www.letigre.net. Tra le e tigre c'è un trattino di quelli alti, non va, un trattino orizzontale. Comunque vabbè, mettete su Google e la trovate. Questa rubrica si basa esattamente su questo, sul prendere una persona a caso, buttare il suo nome su Google e cercare informazioni su di lui. E questa è una cosa, non dite di no, che avete fatto anche voi. 800240024 0024 349-238-6666. E non dite di no, ma avete anche messo il vostro nome su Google. Ok, l'hanno fatto tutti, non c'è problema, anzi addirittura prima con Tiziano ci confrontavamo sul fatto che molti miei conoscenti e molti suoi conoscenti ormai utilizzano le visualizzazioni che escono su Google dopo che uno ha inserito il suo nome per vedere a che livello è il suo successo, a che livello è la sua carriera, per cui se le tue visualizzazioni, se i tuoi risultati crescono vuol dire che nella rete c'è abbastanza di te sparso in giro. Questo articolo però è interessante perché ve ne voglio leggere altri pezzi, perché davvero questo giornalista ha creato una storia solo attraverso i segnali, le tracce lasciate da Mark nella rete. Ovviamente in questo caso Facebook è forse la risorsa principale da cui si recuperano l'80, forse il 90% delle informazioni. Ve ne leggo un pezzo, vado avanti. Mark, bel giovane, capelli lunghi, il viso raffinato dai grandi occhi curiosi, però della foto presa allo Starbucks Café di Montreal, quella volta del tuo viaggio in Canada con Elena e José il 5 agosto del 2008. Avete noleggiato uno scooter, siete andati in spiaggia senza fare il bagno. In tutto hai passato un mese in Canada. All'inizio eri da solo all'Hotel Central de Montreal. Eri lì per un lavoro, assistente architetto in un grande studio canadese davanti a due computer, uno fisso e uno portatile. Ingrandendo la foto si capisce che avevi un Packard Bell. Sei celibe, sei eterosessuale, si luce da Facebook. In primavera hai avuto una storia con Claudia R, che lavora al centro culturale franco-austriaco austriaco di Bordeaux. Confermo che è molto bella, ha i seni piccoli, capelli corti, belle gambe. 800240024. Avete googolato qualcuno, ok? Avete inserito quel nome nella striscia di Google e avete scoperto delle cose. Cose che vi piacevano oppure no, però qualcosa l'avete scoperto. 349-238-6666. 800240024. Ve lo dico perché io l'ho fatto praticamente ieri e oggi per scoprire delle cose su una persona che viene in biblioteca tutte le mattine e su cui vorrei farmi un'idea. E un'idea effettivamente me la sono fatta. Ma se l'è fatta un'idea anche, ad esempio, Ivano che mi scrive: ho concesso l'amicizia su Facebook a uno studente fidanzato con la mia assistente universitaria. Abbiamo condiviso per mesi progetti e considerazioni, ho raccontato con entusiasmo le riflessioni agli studenti a lezione, insomma ero particolarmente coinvolto da un punto di vista progettuale. Oggi su Google ho scoperto che il fidanzato della mia assistente è una lei, ma questa è un'altra storia. Sì Ivano, questa è un'altra storia, ti dirò anche che un'altra storia ancora è che io, per capire tu chi sei, ho googolato il tuo nome e ho scoperto che sei un professore che insegna all'Accademia di Belle Arti di non so più che cosa, e quindi ormai praticamente ci stiamo meta googolando a vicenda. Sandro mi scrive: ho googolato mio padre, sapevo che qualcosa sarebbe saltato fuori perché è stato un calciatore professionista tra gli anni 60 e 70, ma mi ha stupito trovarlo pure su Wikipedia. Allora Sandro, anche qui non ci fermiamo, anch'io ho googolato tuo padre perché mi ricordavo di Luigi Pasetti, giusto? Che è stato un calciatore che ha giocato anche nella Juve, nella SPAL mi pare, ma soprattutto nella Juve. E poi Vissia sul suo papà mi scrive: ho googolato il nome di mio padre, che da un anno non c'è più, e ho scoperto che scriveva su Anima Guzzista, che credo sia un blog o un forum di gente che va in moto Guzzi, ed è stato molto bello leggere i post che ha scritto lui e che sono ancora lì. 800240024 349-238-6666 per sapere chi avete googolato, cosa avete scoperto. Questo è quello che riguarda me. Sono 3 giorni che ho un lavoro e già mi sono annoiato. Niente, la routine mi ammazza. La routine ammazzerebbe chiunque non ha una robusta forza d'animo. Ecco, io quella tempra lì non ce l'ho. E l'ho scoperto a scuola, quando a 6 anni mi hanno detto che dovevo stare seduto tutti i giorni per tante ore ad ascoltare una signora che voleva sembrare mia mamma e invece sembrava mia zia, quella che nessuno voleva andarci a prendere il tè insieme. Questa cosa delle abitudini è difficile da gestire, ma se per un periodo breve forse ce la faccio anch'io. Le persone normali, tutte le persone, invece, non so come, però ce la fanno. Credo che tutto sommato andare a lavorare nel medesimo posto tutti i giorni e fare le medesime cose, che sia in fabbrica o in sala operatoria, sia un po' come stare in una cella, oppure come vivere in un igloo, come sposarsi, come avere una protesi, come essere calvo, come tifare il Torino, come non sapere resistere al cioccolato. Sono cose che dopo un po', se sei bravo, ci fai l'abitudine e non ti accorgi più se qualcuno te lo impone o te le sei scelte tu, però lì per lì è piuttosto difficile. Niente, tu decidi che fa parte della tua vita, come essere obbligato a respirare o a sbattere le palpebre. E basta, finisce lì, pensi ad altro. Il problema però è che io, quando ho fame ma non ho voglia di mangiare, mi arrabbio. Quando ho sonno e non ho voglia di dormire, mi arrabbio. E sbaglio, sempre. Non mangio e non dormo e poi sto male. Io non lo so se imparerò che alcune cose devo farmele andare bene, sennò chi ci rimette sono io. Ecco, chissà che questa cosa del lavoro non sia una bella occasione per far pace con questa insofferenza alla routine. Intanto me la cavo giocando all'impiegato ministeriale, tra caffè, gazzette, Facebook e lamentele, ticket restaurant e chiacchiere con Ciccio e nonna Papera. Sono solo 3 giorni che ho un lavoro e già entro al bar davanti alla biblioteca alle 9:15 e chiedo il solito: cappuccino con tanta schiuma e brioche alla marmellata. Sono solo 3 giorni che ho un lavoro e già so a che ora quei due se ne andranno a fumare la terza sigaretta, quella lunga, quella di mezza mattina, quella in cui io posso scroccare una bella telefonata natalì, quella in cui le racconto di che strani personaggi vedo qui e in cui le dico che cosa voglio io per cena e lei mi dice quale DVD vuole che le prenda in prestito per la serata. Sono solo 3 giorni che ho un lavoro fisso e ho già capito che se non ti fai delle abitudini che ti tengano compagnia e che ti facciano sentire che quella vita che stai facendo è un po' tua, se non ti fai uno schema della giornata, se non ti fai una routine, è un inferno. Forse è quello il segreto di chi riesce a sopravvivere in carcere tutta la vita. Whatever can be held in your heart will surely yours to grasp. So you wished for a picture of all of the people that you had the pleasure to know. Or a postcard from all of the places that you ever wanted to go, saying you are here now on this magical night. Nello schema della mia giornata, la prima cosa che faccio, prima ancora di mettere a posto gli schedari, è controllare se Pico de Paperis è seduto al suo posto. Pico de Paperis è il nome che Ciccio e Nonna Papera hanno dato a un tale. È un tizio che tutte le mattine, da più di 10 anni, dicono, viene a studiare lo stesso libro. Questa storia dei soprannomi da Walt Disney devo ancora capirla, sinceramente. Però per il momento mi sta simpatica e quindi mi piace. Pico de Paperis, tra l'altro, è perfetto per lui, perché da quando leggo Topolino non c'è mai stata una puntata con lui di mezzo che non fosse una boiata completamente inutile. Proprio come questo tizio. Si siede alle 9 della mattina e se ne va alle 7 di sera. È sempre concentrato su quel maledetto libro. Lo chiedo ogni mattina in consultazione perché quello non è uno di quelli che si possono portare via. Sì, avete capito. Pico de Paperis è il pazzo della biblioteca. È quello che ti guarda senza espressione. E allora devi cercare di capire se è perché sta per accoltellarti con ferocia o perché è sotto sedativi. Se è perché sta solo pensando ad altro o perché non ha più nessuna emozione che gli passa per la testa. Mi fa paura, Pico, perché non lo capisco. Mi hanno detto che ha 40 anni, però ne dimostra almeno 10 di più. Statura media, capelli biondi e radi, di un'eleganza misteriosa, sempre la stessa giacca, sempre la stessa cravatta. Però non puzza. E questo un po' mi insospettisce, perché di solito quelli così puzzano, no? Lo sanno tutti. Nessuno sa niente di lui, tranne il nome e l'indirizzo, ovviamente. Lui non parla praticamente con nessuno, non fa telefonate, non fuma e non beve caffè. Solamente ogni tanto scende e fa degli esercizi di tai chi nel prato, col sole o con la pioggia. In fondo potrebbe anche essere solo un ricco studioso solitario. Però non mi convince. Cioè, anch'io prendevo sempre gli stessi libri sul reflusso gastroesofageo quando venivo in biblioteca a studiare i misteri del mio stomaco e quindi un pochettino siamo uguali. Però io non ero così metodico. E poi non l'ho fatto per 10 anni. Niente, non ho resistito alla curiosità e quindi ho dovuto googolare il suo nome. Non Pico de Paperis, ovviamente, il suo nome vero. Ora, qualcosa di positivo sta cosa di internet l'avrà portata, no? Sì, lo so, secondo Tiziano dovrei concentrarmi soprattutto sugli egiziani che twittano dal Cairo o sui libici che scrivono quello che sta succedendo, però a me interessa questo tizio, sto matto che viene da 10 anni a leggere lo stesso libro, che non è la Bibbia, tra l'altro. La Bibbia gliela perdonerei. Così scopro che con questo mostruoso strumento, con Google, che Pico de Paperis è un ex campione di bowling. Che noi non lo sappiamo, ma in Europa è molto giocato. E pare che lui fosse anche molto forte, cioè roba da battere gli inglesi. Non è molto, ma mi rende il personaggio ancora più interessante. E cosa fa qui adesso tutti i giorni in giacca e cravatta davanti a un libro di 1600 pagine? Ma soprattutto, cosa starà cercando da 10 anni dentro le pieghe del manuale di diritto penale? Stamattina Pico de Paperis era lì. E secondo me ci sarà anche domani. Among the lightning strikes. Oh, once I held a glacier to an open flame. And once I felt like wildcat in the falling game. But I will fight this stranger that you should fear. So I won't be a burden out tomorrow, dear. Ma parliamo di musica, caro Mark. Alla fine degli anni 90 suonavi in un gruppo che si chiamava Punk. Resta qualche traccia su Flickr e sugli archivi Google dei giornali locali. Così ho trovato il numero del tuo telefono cellulare, 06-8336, puntini puntini. Volevo verificare se avevi mantenuto lo stesso numero dal 2002 e allora ti ho chiamato. Mi hai risposto, allò? Ti ho detto, Mark, e tu, sì, chi è? Ho messo giù, voilà, ho il tuo cellulare. Questo è tratto sempre da questo articolo di questo magazine che si chiama Le Tigre, in cui questo giornalista ha semplicemente messo nome e cognome di una persona su Google e ha scoperto la sua storia e l'ha scritta in un articolo. Magari dopo, ecco, facciamo così, dopo lo pubblichiamo sul profilo Facebook, così evitiamo che facciate troppe ricerche su Google, oltre a quelle che già fate, perché ad esempio ho controllato i miei vecchi compagni di scuola, soprattutto quelli che mi stavano antipatici. Ora mi rendo conto che quella pensavo fosse antipatia e invece era solo invidia. Io ho googolato me stessa, infatti avendo dei contatti con una casa editrice interessata al mio romanzo e merita sconosciuta, ho scoperto... Questo messaggio è scritto o da un analfabeta oppure è mischiato. Sono stata pronta per volare a Londra con tutto di una valigia e documenti scaduti. Ciao Francesca, bene sì, avevano già pubblicato il mio libro senza saperlo in Inghilterra. No Francesca, perdonami, c'è qualcosa che non va nel tuo messaggio e forse anche un po' dentro di te. Un amico che non vedevo da tempo si è messo con una ragazza molto carina e piena. E cosa vuol dire piena? Fabio da Vicenza, già non ci siamo oggi. È molto ricca. Ricca. Con una ricerca non proprio superficiale, sono riuscito a trovare il suo nick, i suoi gusti, le sue passioni e un centinaio di foto pubblicate, tra cui i viaggi che ha fatto e un paio di sue foto in mutande. Quando l'ho incontrata la prima volta, ho fatto finta di aver capito i suoi gusti dei viaggi che aveva fatto. Ho passato le seguenti settimane a scriverle. Ho lasciato stare per rispetto del mio amico, ma ho capito la potenzialità di una cosa del genere. Fabio da Vicenza, bisognava proprio farla per scoprirla, vero Fabio? Forse Fabio, diciamocela tutta. Un pochettino sta ragazza. In generale ogni giorno cerco informazioni su qualcuno, nome e cognome tra virgolette, mi raccomando. Questa ad esempio è una cosa che mi ha detto Tiziano Bonini live adesso e che non sapevo, è che nome e cognome vanno messi tra virgolette nella ricerca, altrimenti vengono fuori tutte le ricerche sul nome e tutte le ricerche sul cognome. Vabbè, è arrivato anche Marco Tulli a fare la faccia di compatimento, come dire ammazza, o non sai ste cose, io sono 15 anni che ci lavoro. Andiamo però a sentire Luca da Genova, che ha cercato una fiamma, strano no, su Google. Pronto Luca? Sì, ciao. Ciao, come stai? Bene, benino. Dimmi che vecchia fiamma... Il massimo del minimo, cerchi le vecchie fiamme. Ok. Essere l'unico. Da quanto, sì, mi sa di sì, da quanto era vecchia la fiamma? Cioè, quando era 20 anni. E cosa fa adesso? Cosa hai scoperto su di lei? Ho scoperto quella che mi farebbe piacere pensare che potesse essere la mia vita se non ci fossimo persi di vista. Quindi ci ho lasciati, uno da una parte e uno dall'altra parte dell'oceano, e dato che avevo 18 anni non ho avuto lo stomaco di mollare tutto. Luca, però io sento del rammarico nella tua voce, sento una forma di malinconia mista alla tristezza, no? Quindi c'è qualche... Sì, certo, senti bene. Ma però non buttarti così giù, Luca. Che cosa, no! Che cosa fa lei adesso? Chi è? Lei adesso scrive libri per bambini. Ah. È una mamma, uh-huh. Una, due figli e due figlie. Uh-huh. Niente. Niente. Ha, Luca... ha avuto la brutta pensata di mettere su internet le sue foto, quelle della sua figlia, dei suoi bambini, eccetera. E ti fa pensare come potessero la brutta pensata le cose, no? Sì, certo. Luca, però questa telefonata mi sta veramente intristendo. Dimmi qualcosa di allegro, altrimenti mi deprimo. Dimmi tu cosa fai invece, cosa hai fatto della tua vita? Ah, ho fatto la stessa cosa che ha fatto lei, una splendida. Ma allora, scusami. Ah, lo so. Ma l'uomo è sempre disperata di quello che ha perso, no? Ma quello che ho perso è sempre meglio di quello che ho avuto, anche se quello che ho avuto è stato un pochettino meno del massimo. Guarda, un po' ti ho perso Luca, però effettivamente spero che tua moglie non ascolti Radio 24. No, ne ho la certezza, se no non lo farei mai. Okay. Va bene, Luca, poi mi dici il tuo cognome e così ti googolo con le virgolette. Grazie mille, buona giornata. Ciao, ciao, alla prossima. In generale, ogni giorno cerco questo andato. Ho trovato un ex collega su Google e ho scoperto che era stato arrestato per spaccio. Volente o nolente, le distanze sono cambiate, nonostante sia comportato sempre bene al lavoro. Remo. Cerco di me, chi sono, come appaio online, mi piaccio oppure no, alimento il mio ego, non mi piaccio, se piaccio oppure no, alimento il mio ego giusto un po', mi piace molto googolarmi tanto. Cinzia, al di là della grammatica del tuo messaggio, Cinzia, hai ragione. 800240024, la borsa e poi io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. I'm here. Io sono qui. Io sono qui. Noi siamo qui. Io sto aquí. Quella di oggi è esattamente il prototipo di foto che mi piace. C'è un tizio di spalle che cammina su una strada infinita, potrebbero essere gli Stati Uniti, potrebbe essere la Mongolia, è una strada asfaltata comunque, c'è una linea bianca e lui cammina proprio sulla striscia di mezzeria, nel mezzo. Lui è di spalle, quindi non vediamo la faccia, però vediamo che ha uno zaino pesantissimo, proprio degli zaini, quando pensi a uno zaino, immaginate uno zaino, ecco quella roba lì, carichissimo, con oggetti appesi, il sacco a pelo arrotolato, non il sacco a pelo, perdonatemi, lo stuoino da Boy Scout arrotolato, fatto su in cima allo zaino. È però un dilettante, questa cosa si capisce da cosa? Dal fatto che sta camminando con tutto questo peso sulle spalle e ha delle infradito ai piedi. Ha un paio di jeans soprattutto, risvoltati in fondo, quindi in realtà potrebbero essere due le cose: o è un dilettante che è partito senza avere idea di che cosa lo aspettava, oppure è uno che è alla fine del viaggio e non ha più pantaloni o scarpe da mettere. Andrea Campanella, 37 anni, da Vicenza. Nella foto che vi ho mandato si vede Giuseppe di schiena che cammina su una striscia d'asfalto, infradito, zaino bello carico. Lui è partito dall'Italia 8 anni fa, ora è in Gabon con il Sudafrica di fronte. Io sono qui. E devo dire che Giuseppe mi sa che sta anche andando in piazza, perché essendo di spalle si vede che qua proprio ha quella tipica aureola di capelli che stanno cadendo. Però ci sta simpatico Giuseppe, perché è partito dall'Italia 8 anni fa e adesso è in Gabon, che non so manco dove sia. Però io sono qui, @radio24.it, oppure il profilo Facebook Matteo Caccia, io sono qui se avete voglia di mandarmi le vostre foto. Torniamo ai messaggi, torniamo a Google. Alberto mi scrive: durante un processo di assunzione una candidata segretaria manda il proprio curriculum vitae. Investigando su Facebook, la sua foto del profilo era il suo fondo schiena con un tatuaggio gigante, all'interno del profilo riferimenti continui a droghe e alcol. Credo che non sia stata assunta. Ho cercato qualche informazione sul mio carissimo zio morto mesi fa. Ho scoperto che diversi giornali locali avevano pubblicato un articolo in memoria al defunto che secondo me lui stesso aveva scritto. Luisa, cioè, si era scritto dei coccodrilli su di sé. Però rimanendo in tema di zii, c'è proprio una telefonata di Carlo da Milano che ha fatto una ricerca sul suo zio. Pronto Carlo? Sì, sono in linea. Ciao, sei in linea, allora siamo in due. Come stai? Tutto bene, complimenti, sei molto bello, ti seguo sempre. Grazie mille caro, anche tu sei molto bello, anche se non ti vedo già un pochettino ti immagino. Avevo cercato questo mito di famiglia che era un pilota degli anni 30, sì? Di cui c'è una piazza lì nel nostro paese, Corte Emilia nativo. Corte Emilia dov'è esattamente? In provincia di Cuneo, nella valle del Bormida. Ok. E quindi è un paese che era un po' disagiato ai tempi, figurati negli anni 30. E questo qui si è messo in testa di fare il pilota di aereo di allora. E ce l'ha fatta? E ce l'ha fatta. E abbiamo delle foto che guida dei carretti con delle vele per imparare a volare. Però questo è un mito, non sapevamo quasi niente tranne le storie di famiglia. E andando sull'internet ovviamente è saltato fuori delle storie interessanti, tra cui una buffa che è stato ripreso quando poco prima che morisse in Albania, perché lui era un po' poco attento alle regole e aveva inseguito degli aeroplani francesi cercando di mitragliare il campo d'aviazione quando la guerra non era ancora. Senti Carlo, quindi per chiunque volesse cercarlo oltre a te, lui si chiama Oscar Molinari. Oscar Molinari ha avuto 3 abbattimenti confermati, quindi è considerato un asso dell'aviazione. Però è noto soprattutto per aver fatto una crociera con 15 apparecchi CR-32 monomotori biplani scoperti, partendo dall'Italia fino all'Islanda, fino all'America, fino al Venezuela, facendo esibizioni acrobatiche in tutte le città per dimostrare la potenza della Regia Aeronautica di allora. Guarda, ho cercato l'ho fatto in questo momento, ho scritto Oscar Molinari pilota su Google e mi è uscita una pagina del corrieredelsagno.it. Al rientro dal campo base riceve la medaglia d'argento al valor militare. Termina qui la storia del pilota Mario Frascadore Molinari. È lui? No, Oscar, questo è un altro. Devo cercare Molinari Oscar, sì, perdonami, sì, ho confuso sul. Sì, quello l'avevo messo io trovando su internet un riferimento a quell'episodio che ho citato. Chiaro. Carlo, ti ringrazio moltissimo. Chiunque volesse cercarlo è Oscar Molinari. Buona giornata. Ciao, grazie. Visto che poi la prima ricerca pare sia familiare, la seconda invece riguarda gli ex e i fidanzati delle ex. Giusto Martina? Sì, Pronto, buonasera. Ciao, buonasera Martina, ciao. Buongiorno, ciao, direi. Ciao, ciao. Tu buongiorno. Hai cercato il tuo sì. ex o la fidanzata no, del tuo ex? Io ho cercato l'ex fidanzata del mio attuale compagno. E da lì sono arrivata a sapere tutto di lei, perciò ristoranti, indirizzo, numero di telefono, come si chiama il nipote, come si chiama qualsiasi persona che la riguardano, dove è stata in vacanza. Ma scusami, ma queste informazioni ti sono servite? Ma mi sono servite a conoscere, diciamo virtualmente, la persona, perché comunque poi ogni tanto qualche messaggino arriva sempre sul cellulare del mio tuo fidanzato compagno, e allora mi sono documentata per questo motivo. Senti, ma questa cosa qua ti fa sentire una persona migliore o una persona peggiore, Martina? Ma né uguale. Migliore né peggiore, direi. Dici una cosa che sai di lei che non ti piace. Solo per curiosità ho fatto questa cosa, poi non è che mi interessi, non mi interessa né come non ti interessa, ma dai, però se la cerchi ti interessa. Sì, solo per vedere che faccia aveva. Ma la curiosità e l'interesse sono la stessa cosa, Martina. Sì, no, non avrei interesse a contattarla. Vabbè, però comunque tu sai delle cose su di lei e questo sì, ti sì. Perfetto, benissimo. Martina, grazie mille. Ciao. Buona giornata, ciao. Grazie, auguri anche a te, anche se non so per cosa. Andiamo a Torino da Edoardo velocemente, che ha scoperto anche lui delle cose sullo zio. Pronto, Edoardo? Pronto. Ciao, buongiorno. Sì, allora, io praticamente ho sempre avuto questa curiosità verso la mia famiglia, scoprire, diciamo, delle notizie riguardo alla mia famiglia, però sì, magari... no, questo l'ho capito, ma su tuo zio in particolare che cosa hai scoperto? Mio zio in particolare è proprio scoperto questo, che googolandolo ho trovato il suo nome, Carlo Mangiù, e ho scoperto che è stato in passato... Scusa, ripetimi il nome che lo faccio subito. Carlo Mangiù. Carlo Mangiù? Sì. Mangiù, con l'accento sulla U. Ho scritto, eccolo qua, Carlo Mangiù, Wikipedia. Catania, infatti, 1930, è morto il 13 luglio del 2000. Sì, ho scoperto così improvvisamente di avere questo... è in realtà una parentela, è il cugino di mia madre. E quindi questo è stato molto importante per me, scoprire che lui è stato un attore, proprio perché anch'io vorrei fare l'attore. Tu quanti anni hai, Edoardo? Adesso 20. E stai facendo una scuola, un corso? Sì, sto facendo vari corsi e sto cercando anche di, diciamo, ripercorrere le tappe di quello che è stato il percorso di questo dello zio, certo, ti dà un po' di forza. Edoardo, io spero che magari tra 6 mesi o un anno, googolando il tuo nome, trovo di te che hai fatto uno spettacolo meraviglioso. Speriamo. Io volevo dirti complimenti per la trasmissione, complimenti a te. Ti ringrazio. Non ti ho fermato ieri perché ti ho visto all'aeroporto di Verona, ma eri con la tua ragazza e non ho voluto... All'aeroporto non credo, però ti ringrazio lo stesso, Edoardo. Buona giornata. Buona giornata. Ciao, grazie. Torniamo invece all'articolo di prima, torniamo a Google perché voglio leggervi la parte finale di questo articolo che riguarda una persona che il giornalista non conosceva, eppure alla fine sapeva tutto. Ammetto, caro Mark, di aver barato una volta in questa ricerca. Ho creato un falso profilo per diventare tuo amico su Facebook. Non mi hai subito dato l'amicizia e quindi ho dovuto inventarmi una palla, che ero un appassionato di Montreal e avevo visto le tue foto su Flickr e volevo essere tuo amico. Hai accettato. Ho trovato tutto quello che volevo su di te, Mark. Immagino la tua vita quotidiana, la tua vita di giovane architetto d'interni, il tuo piacere a suonare ancora coi vecchi compagni di Bordeaux, i tuoi viaggi dall'altra parte del mondo, la tua futura ragazza. Immagino avrai i capelli corti, giusto? Ma mi manca una cosa, Mark. Il tuo indirizzo di casa. In questi tempi dematerializzati il telefono portatile è il vero domicilio personale. Ma questo però mi crea un problema. Come posso inviarti questo numero del mio giornale con questa rubrica che parla di te? Ho scoperto che abiti in via F puntato, ma mi manca il numero civico e tu non sei sulle pagine gialle. Alla fine credo che non ti invierò questo ritratto. Dopotutto, la tua vita, tu, la conosci bene. Quanto me. Paolo mi scrive: io mi sono googolato e visto quello che è uscito, mi sono immediatamente cancellato da Facebook. Domani non lo so, ma oggi io sono qui. E voi dove siete?